Luisa Rossi? Sì. Luisa Rossi sa bene quel che fa. Luisa Rossi sa bene quel che fa. Regala un giorno a me, ride poi se ne va. Va, lei va, deve. Va, lei va, ride con tutti, ride con tutti, sa quel che fa. Quel che fa. Luisa Rossi rischia di restare sola e lei lo sa. Luisa Rossi rischia di restare sola e lei lo sa. Regala un giorno a te, ride poi se ne